Facciamo come al solito una riflessione di sintesi e con una premessa, quattro considerazioni e una conclusione. La premessa è: perché ci ritroviamo qui da 43 anni a discutere di un prodotto, un rapporto annuale che tutto sommato 43 anni fa aveva almeno il senso della novità, c'era solo il rapporto del governatore, la relazione del governatore e la relazione economica del paese a fine marzo, ma che oggi è in pratica circondato da tanti altri prodotti di conoscenza, di analisi. Perché ci ritroviamo qui? Perché ci siamo simpatici? Perché il tipo di riflessione ci piace? Perché ritrovandoci ci sentiamo meno vecchi? Ci sono tre persone che l'hanno fatte tutte questi 43 anni, cioè io, Raffaele Vanni e Mimmo De Sossi. E ci siamo tutti e tre ancora, noi tre, ma tutti quanti voi, la maggior parte di voi è tornata qui più volte. Perché? Che c'è in questa riflessione? Io credo che ci sia un elemento fondamentale che oggi diventa ancora più importante emotivamente. È la resistenza alla prigionia dell'evento. Nessuno di noi vuole restare prigioniero nell'evento. Che succede oggi, che succederà domani, che c'è scritto sul giornale, qual è la notizia bomba della settimana. Noi vogliamo capire anche il lungo periodo. Non solo noi scienze, ma tutti, una quota della classe dirigente, non tutta, vuole capire il lungo periodo. E vuole capirlo da un angolo visuale che, proprio perché è lungo periodo, proprio perché attiene alle grandi derive storiche del sistema, finisce per anche avere una quota di terzietà, di non schieramento fra la destra e la sinistra, governo e l'antigoverno, necessari in una realtà come la nostra. In fondo, in 43 anni nessuno ci ha mai potuto accusare di essere di destra o di sinistra, ma proprio perché la dimensione è quella di capire le lunghe derive, i lunghi processi, e andarseli a scoprire, a vedere i lunghi processi. Quando ho fatto qualche telefonata nei giorni scorsi con qualche amico direttore di giornale opinionista, mi ha detto: guarda che Cospatuzza perdi 5-0, non c'è partita. Venerdì parleremo tutti di Spatuzza, perché ci abbiamo mandato 100-200 giornalisti a Torino, e del rapporto Censis non ce ne frega niente, o quasi. Può darsi che vincano 5-0, ma è sicuro, no? Da laziale, vero, posso anche accettare da laziale masochista, posso anche accettare questo tipo di cose. Però il fatto vero è che c'è in questa società ormai la sensazione che l'evento non crea nulla, e che da almeno 15-20 anni viviamo in una continuazione di eventi che non hanno prodotto nulla. Se mi permettete, le uniche due citazioni che faccio, dei due poeti a me più cari, Leopardi e Giuseppe Gioacchino Belli, Leopardi diceva, e io pensavo agli ultimi 20 anni di questo paese, diceva: umbra, salda e reale, ci apparve il nulla. E il nulla ci è apparso come una cosa reale. E invece Belli, un po' più brutalmente, diceva: è stato uno scenofreggio, sicut erant principio et nunc et peggio. E quindi questa successione degli eventi, questa dimensione continua del proporci eventi, oggi sarà Spatuzza, domani sarà un'altra cosa, crea quello che diceva l'eccitazione mediatica, l'eccitazione emotiva, l'emozione dell'evento, che poi alla fine decade immediatamente. E quindi è pensabile che una collocazione quale quella che noi, non con grande forza e lucidità, ma 43 anni fa cominciamo a sceglierci con questa riflessione insieme al CNEL di allora, ancora oggi io sono molto grato al Presidente Campilli di averci dato spazio 43 anni fa, è proprio questo: fare lungo periodo, fare terzietà, fare liberazione dalla coazione all'evento che molti nostri cervelli hanno. Questo questa, diciamo così, prefazione, questo sfogo anti-evento io sempre dentro il cuore, introduce alle quattro riflessioni. Prima riflessione, quella che proprio dà il senso a quello che ho detto finora, questa è una società replicante, che ha replicato nel 2008 lo stesso modello che c'aveva negli anni precedenti, io oso dire lo stesso modello che si è creato negli anni 70. Perché abbiamo resistito alla crisi? Andatevi a vedere tutti i giornali, tutte le analisi, tutte le opinioni, dal ministro Tremonti giù fino all'ultimo giornalista economico. Abbiamo resistito alla crisi perché non eravamo molto avanzati dal punto di vista finanziario, eravamo una società tutto sommato più di economia reale, perché le nostre banche non erano andate troppo avanti nella loro finanziarizzazione ma restavano agganciate al territorio, perché comunque il sistema è di economia manifatturiera e non finanziario, perché il sistema di economia manifatturiera è regolato da una miriade di piccole e piccolissime imprese che creano elasticità e tutto sommato capacità di adattamento, perché nella piccola impresa vige un mercato del lavoro molto elastico, specialmente pensando al sommerso che nell'ultimo anno è addirittura aumentato come meccanismo di elasticità del sistema, perché lo Stato è sempre intervenuto non soltanto facendo panettoni e acciaio ma facendo grande cassa integrazione e sostegno del reddito e del consumo, perché tutto sommato la famiglia copre con la proprietà della casa l'angoscia di un disoccupato, copre con il risparmio accumulato la possibilità di non diminuire i consumi e quindi di mantenere i consumi, perché alla fine un po' di micro welfare comunque riusciamo a darlo nella famiglia e fuori dalla famiglia. Ultimo e decimo punto, perché siamo tutti dentro una coesione sociale territoriale dove il localismo non è soltanto il distretto industriale ma è la capacità degli amministratori locali, della comunità, di reggere alla crisi. Beh, signori, questi 10 punti che vi ho confusamente elencato sono il modello italiano. Il modello italiano che già negli anni 70 si configurava. Questa sala ricorderà, la sala no, voi no, ma la sala lo ricorda, che nel 71 noi cominciamo a parlare di sommerso, di economia sommersa, che negli anni 70 abbiamo parlato di famiglia SPA, che negli anni 72-73 abbiamo parlato di localismo. Cioè abbiamo messo a fuoco un modello che si andava facendo lentamente e che poi ha resistito alla crisi degli anni 90 attraverso un meccanismo di piccola impresa tutta orientata sul lusso, ha resistito alla crisi del 2001, quella successiva alla guerra in Iraq e alle due torri, ha resistito anche all'impoverimento e al declinismo di uno o due anni fa e ha resistito all'ultimo anno alla crisi che sembrava epocale, disperante, distruttiva, non saremmo stati più come prima. E io abbiamo scritto nel rapporto di quest'anno: fatalmente siamo gli stessi di prima, una società replicante. Questo dà il senso della lunga deriva, perché se fossimo oggi a ragionare sugli eventi, nessuna di queste componenti che vi ho detto del modello italiano, quello che si è replicato con successo nell'ultimo anno, nessuno di questi elementi ha avuto il momento di gloria dell'evento, e se l'ha avuto negativo. Quante volte noi grandi sostenitori della piccola e media impresa siamo stati sbeffeggiati come cultori del piccolo o difensori del localismo industriale come protettori degli straccioli pratesi o degli scarpari di fermo. Quante volte il familismo che oggi ha protetto l'Italia è stato considerato il familismo morale di cui Benfield ci aveva gratificato negli anni 50. Questi meccanismi della lunga deriva, nel momento in cui sono arrivati a essere percepiti dalla cultura dell'evento, sono stati considerati negativi. Il nanismo imprenditoriale, la piccola impresa era nanismo imprenditoriale, non ce la faremo, saremo distrutti nella globalizzazione dei grandi perché noi siamo nani. Ecco, questo elemento il segno che riflettere sul lungo periodo alla fine finisce per avere, non dico ragione, ma finisce per spiegare meglio di altri da chiavi di lettura quello che è avvenuto. Il problema vero è se basta o no. Perché noi possiamo dire, ragazzi, il 2009 è stato felicemente superato dal modello italiano. E ve lo rispieghiamo. Alla fine ormai nessuno ci nega più il fatto, ci ridice che siamo amici degli straccieroli. Nessuno ce lo dice più. Però siamo noi stessi che diciamo, ma se nel 2010 si aggrava la crisi, o se dobbiamo cercare di pensare al dopo nostro, perché una società evolve, la replica costante rende ancora. Replicare, a parte che come si dice, come dicono i cantanti, replicare stanca, perché la prima replica, la seconda replica, la terza replica, alla quarta replica non c'è più il gusto. Ma replicare stanca, ma a parte questo, questa replica basta. E questo è il punto cruciale. E devo dire, ne parlavamo con Roma, le poche persone, specialmente i nostri amici del Club dell'Economia, in cui abbiamo anticipato l'altro ieri, presente anche il vicepresidente Fini, i nostri modi di pensare, hanno tutti, da Cipolletta a Sarcinelli, hanno detto, diciamo, oh, però ci dovete dire anche quello che succede dopo. No, non ci basta più sapere che è successo. C'è un'ansia del dopo che naturalmente a cui non si può rispondere dicendo replicheremo il modello. Perché il modello è stanco, perché i soggetti del modello alcune volte sono stanchi, perché probabilmente il modello non è più adatto a sfide diverse da quelle che ha sopportato finora. Avendolo in qualche modo annusato nei primi anni 70, dopo 35 anni, possiamo essere noi per primi a dire guardate che la replica può non bastare. Questo è il primo punto. La prima riflessione di lungo periodo è che nel lungo periodo ha vinto il modello di lungo periodo, però non sappiamo se quella replica finirà per avere successo anche in futuro. Questo perché passo al secondo punto, perché in effetti anche rispetto alla crisi che noi abbiamo avuto, che abbiamo attraversato, non c'è stata cultura diversa. Una cultura politica diversa poteva dire no, bisogna fare in modo completamente contrario, grandi investimenti in finanza, grandi investimenti nella grande impresa, grandi tecnologie, eccetera. Se avete notato, tutto l'intervento, sia politico, governativo, ma anche d'opinione, è andato nella direzione di secondare il modello. Se uno pensa al modo in cui anche con le parole il ministro Tremonti ha accompagnato questi 15 mesi, sempre sdrammatizzando, sempre dicendo ma ce la faremo, ma intanto ci sono le... dava il senso che con poche operazioni, i bonus per le banche e la cassa integrazione si secondava al modello, non si usava la crisi per trovare un interruttore diverso, una luce diversa per il futuro. Quindi noi oggi siamo replicanti e solo replicanti, in una solitudine della replica. Allora possiamo dire, ma ci resta quindi un destino di regressione? L'anno scorso, ricorderete, noi parlammo che eravamo in una nuova metamorfosi. Guardando quello che è successo, abbiamo visto che il modello è stato così forte da non permettere una nuova metamorfosi. Anche perché il modello è stato aiutato a reggere anche dall'intervento politico, dall'intervento che avrebbe potuto cambiare con maggiore liberalizzazione, maggiore Stato, con maggiore mix di Stato-mercato, di economia mista, avrebbe potuto cambiare. No, ha assecondato il modello. A questo assecondamento del modello non ha permesso la metamorfosi. Però, qualcosa è successo. Anche nella replica succedono tre cose, che sono gli elementi di novità di quest'anno. Le ha già indicati Roma, quindi posso esplicitarli in maniera il più rapidamente possibile. Primo, comincia una stagione che l'Italia non ha mai avuto del primo processo di ristrutturazione del terziario. In Italia sappiamo tutti la ristrutturazione industriale, come arriva, i deficit di bilancio, la paura di portare i libri in tribunale, il manager che fa il duro, i licenziamenti, le ristrutturazioni, gli scivoli, eccetera, eccetera, i protagonisti della ristrutturazione, i romitiani forti che fanno le ristrutturazioni. Sul terziario mai. Le stesse ristrutturazioni delle banche che sembravano, cioè, abbiamo 90.000 esuberi, li avete visti come ristrutturazione, riassorbiti o non affrontati. Il terziario ha una specie, è stato una specie di ventre molle italiano, dove è andato di tutto. La diplomata maestra che con il papà è piuttosto importante finiva in banca o finiva nell'assicurazione. Il laureato finiva a fare il precario nella scuola e dopo un po' di anni diventava insegnante. Il laureato che voleva entrare nella pubblica amministrazione si dedicava a un lungo precariato o a contratti stravaganti, 3 mesi, 2 anni, 1 anno. Oppure si metteva in proprio, si faceva il piccolo studio da professionista. Abbiamo il terziario avanzato, gonfiava funzioni, dalla pubblicità alla consulenza, alla ricerca sulla ricerca, alla formazione sulla formazione, che non avevano molto senso, però abbiamo gonfiato il terziario. Oggi non ce la facciamo più. E quest'anno è cominciato la ristrutturazione. Naturalmente non c'è nessun Romiti, non ci potrebbe essere nessun Romiti a gestire la ristrutturazione del terziario, perché sono processi interni ai singoli settori. Ha citato per esempio Roma, interni al commercio, la grande distribuzione in forte ristrutturazione, la piccola ristrutturazione. Si potrebbe andare a chiacchierare con Carluccio Sangalli o con Taranto, al commercio c'ha morti e feriti a ogni 20 metri. I liberi professionisti sono in grave crisi. Dario Di Vico ha riempito pagine sulla crisi dei nuovi dei professionisti e la riaggregazione, la crescita di studi più grandi, meno individualizzati. I servizi alle imprese che nascondevano quel terziario avanzato, un po' troppo avanzato, oggi invece viene selezionato. Le imprese non è che prendono chiunque o qualsiasi servizio avanzato solo perché hanno l'etichetta o perché hanno la bella signora che riesce a venderti pubblicità. Le stesse banche o le stesse assicurazioni si vede che fanno ristrutturazione. Oggi noi viviamo e vivremo nei prossimi 3 o 4 anni questo grande problema che in 50 anni non abbiamo mai affrontato. Abbiamo messo tutti gli scivoli occupazionali, li abbiamo scaricati tutti sul terziario. Oggi non si può più e quindi comincia un processo di ristrutturazione. Ed è il primo anno che se ne vedono chiaramente le... È un processo, come ho detto prima, di lungo periodo, per carità, non si risolve in 1 o 2 anni, ma comincia. Così come comincia uno slittamento non indifferente, importante, del peso dell'impresa manifatturiera, dell'impresa industriale. Se è vero che non c'è oggi nessun modello o nessun intervento strategico da parte della politica sulle imprese, le imprese fanno da sole ed essendo gli unici soggetti, tranne forse qualche ministro, gli unici soggetti che hanno relazioni internazionali sono quelle che stanno dentro le cose, sono quelle che modificano se stesse, modificano la realtà circostante. Il drive, la leadership dello sviluppo italiano sta passando alle imprese, non a noi intellettuali, non ai politici, non ai legislatori, sta passando alle imprese, con tutti i vizi che questo può comportare, perché poi con buona pace dei miei amici bazzoliani, poi il bene comune non è che le imprese lo vivano tutti i giorni come un must, però certamente è quella la tendenza. E Roma l'ha spiegato il perché, perché le imprese sanno starne nel breve periodo, perché le imprese fanno relazione, perché le imprese hanno una cultura dell'empirismo incredibile, perché le imprese sanno lavorare fra le linee, perché le imprese sanno moltiplicare le presenze dai grandi negozi monobrand fino alle delocalizzazioni produttive, fino agli investimenti all'estero, eccetera, eccetera. Hanno cambiato la loro strategia perché nella relazione quotidiana col mercato hanno cambiato tutto. Mentre noi, intellettuali, politici, legislatori, siamo sempre gli stessi, me compreso, per carità, no? È questo che sta cambiando la leadership. Sta cambiando la leadership e quindi in alcuni casi, non faccio i nomi perché è sempre, in alcuni casi il sistema va dove lo portano alcuni grandi capitani d'impresa. Specialmente di utilities, se volete, ma anche di commodities short. E chi governerà questo sistema? Chi riesce a garantire a un sistema che ormai lascia le redini alle imprese, che poi il bene comune, le coerenze fra i problemi, le aree povere, il mezzogiorno, i giovani vengano governati? Governeremo, ci avremo le briglie su delle realtà, degli animal spirits che vanno per conto loro. E questo è legato al terzo sintomo di novità che c'è nel sistema, ed è il fatto che gli interessi si rappresentano direttamente. Quando gli interessi si rappresentavano, voi avevate che un interesse di un'azienda veniva spostato all'Unione Provinciale degli Industriali, poi passava alla Confindustria, c'era una rappresentanza, si formava il soggetto collettivo rappresentanza sindacale, dialogava con il soggetto collettivo della politica, del partito, poi dialogava con altri soggetti collettivi imprenditoriali nazionali, con il terzo settore, e c'era. E si formava un coagulo non di intenzioni, ma almeno di visione comune. Se invece gli interessi, come avviene oggi, non vengono più rappresentati, ma vengono agiti direttamente, per cui il signor Marchionne o il signor Scaroni, dico per dire, vanno direttamente. Poi magari fanno anche parte della giunta di Confindustria, fini, non è che, però l'agibilità dei loro interessi è diretta. E voi capite che significa l'impoverimento di una società che perde i suoi soggetti intermedi. Lo dico in questa sala, Vanni, credo, e Mimmo De Sosta, mi sa, in cui per decine d'anni ho detto che bisognava giocare tutto sui soggetti intermedi. I soggetti intermedi sono quelli oggi più in crisi. Perché ciascuno degli operatori, specialmente quelli più dinamici, agiscono direttamente i propri interessi. E si capisce perché a un certo punto un imprenditore che ha in questo momento l'intuizione che sulla banda larga si gioca una parte del suo futuro deve aspettare mediazioni politiche, deve andare dal politico, no, va direttamente o dall'avversario o dal potenziale alleato e via. Questa agibilità diretta degli interessi fa sì che tutto sommato il sistema distrugga ulteriormente i soggetti intermedi e implicitamente distrugga la politica, che la politica è intermedio, non è vertice. Noi pensiamo sempre alla politica come il faraone sulla piramide, no, la politica lo vedete tutti i giorni, è quotidiano stare nel meccanismo decisionale, non c'è più una piramidalizzazione della politica. E quindi nell'intermedio, nell'assenza dei partiti. E questo è il terzo punto, la terza novità che oggi noi abbiamo riscontrato. Una società replicante ha tre novità delicate, non tutte facili da gestire. Non tutto è facile da gestire perché arrivo al terzo punto che voglio sottolineare, perché siamo prigionieri dell'opinione. Perché perché come siamo prigionieri dell'evento, noi siamo prigionieri dell'opinione. Gli stessi portatori di interessi, quando fanno i rappresentanti, fanno gli opinionisti. Pensate ad alcuni grandi sindacalisti, alcuni grandi presidenti confederali, fanno gli opinionisti. Sanno che non sanno più gestire gli interessi dei loro rappresentanti, quindi devono rappresentare delle ipotesi complessive sui giovani, sulla ricerca scientifica, sul capitale umano, sugli incentivi, che fanno parte dell'opinione in cui io, presidente, io, segretario generale di un sindacato, sono uguale al Rita che scrive sul Corriere della Sera, no, non ci sono, perché nell'opinione siamo tutti uguali. E invece tutti andiamo nell'opinione, in quella che Roma dice essere un sovrodimensionamento della dimensione mediatica, ma la dimensione mediatica, voi avete tutti una prigionia nell'opinione. Noi siamo governati dal gioco degli opinionismi, degli opinionisti. Essendolo anch'io per secondo lavoro, posso dirlo. È il gioco degli opinionisti. E quando Ferruccio De Bortoli dice qui si creano le opinioni anche se non c'è il fatto, anzi è l'opinione che crea il fatto e non più l'opinione che segue il fatto, lui dice una verità. Che nell'anno 2009 è stato fondamentale, ma quante opinioni sulla crisi sono diventati poi dei fatti acclarati, non avvenuti perché erano ombre del nulla, però sono diventati elemento di discussione, di rabbia. Anche perché, come potete ben immaginare, il gioco mediatico degli annunci, il gioco mediatico degli eventi, se diventa gioco delle opinioni, scade in un gradino, che almeno l'evento, diciamo, c'è Spatuzza, andiamo a vedere. Ma se invece è l'opinione su Spatuzza, su cui nei prossimi, per 3 giorni avremo una foresta di opinione, ma alla fine l'opinione finisce per eliminare anche il valore dell'evento. E se l'opinionismo diventa, come sta diventando, retroscenismo, e se il retroscenismo, come è diventato in qualche caso, diventa retroscenismo gossiparo, e sei finito. Sei finito perché non hai più l'alimentazione della politica. Non hai più l'alimentazione della cultura politica che in qualche modo è coscienza delle cose, coscienza dei processi, coscienza del momento in cui deve intervenire nel processo. Se invece tutto è gossip, retroscena, opinionismo, evento e impressività mediatica, tu non fai più politica, fai opinione. Non a caso è un paese che si regge, o un governo che si regge, sul sondaggio d'opinione, perché altrimenti nessuno avrebbe più da dire qualcosa in più sull'attuale realtà. Però il sondaggio d'opinione resta. Io mi domando, essendo, come sapete, ormai un po' anziano, quanto ho creduto nei discorsi infuocati di Ugo La Malfa quando diceva basta con i partiti d'apparato, dobbiamo andare verso il partito d'opinione. Mai e poi mai avrei pensato che saremmo arrivati all'opinionismo diffuso. Il partito d'opinione di La Malfa non era l'opinionismo di adesso, ma era, diciamo così, il preannuncio speranzoso che invece è diventato un po' da incubo. Noi oggi dobbiamo pensare che la dimensione della politica è una dimensione negata, da una parte perché non ha più la sponda dei rappresentanti degli interessi, per cui se Tremonti e la Marcegaglia si incontrano a Cernobbio fanno 2 dichiarazioni di opinionismo. Non è che si mettono lì a dire quali sono gli interessi su cui possiamo lavorare. E dall'altra parte invece c'è questo opinionismo montante che crea una dimensione difficile addirittura da capire, non dico il dopo, ma da capire quello che succede. nella logica. E nella assenza della politica, nel vuoto della politica, naturalmente i fantasmi arrivano e gli incubi ci sono. I fantasmi li abbiamo visti, quello che ho detto prima, ombre salde reali, ed erano il nulla. O i scenofreggi che diventano sempre peggio. Il vero punto però su questo è colpa solo del personale politico, dell'influenza politica, oppure c'è una deriva storica più lunga che colpisce la politica. Noi finiamo le considerazioni generali di quest'anno, cioè l'ultima parte, la penultima parte, dicendo che la politica non solo non ha l'alimentazione dal dibattito, perché il dibattito è solo opinioni, non solo non ha alimentazione dalla rappresentanza di interessi e dalla dialettica degli interessi, ma la politica non riesce più, non ha più neppure i patrimoni del passato. La politica ha avuto tre grandi patrimoni, la politica italiana di questi 50 anni. Ha avuto il patrimonio della cultura risorgimentale, il patrimonio della cultura riformista e il patrimonio della cultura di mercato, del fai da te, della soggettività individuale. Se andiamo a vedere queste tre culture, non hanno più la capacità di trainare le masse, di fare movimento collettivo. Pensate, la cultura risorgimentale ha fatto l'Italia. E ancora oggi, per molti di noi, me compreso, la cultura risorgimentale è la cultura dello Stato, la cultura del civil servant all'Andrea Monorio, è la cultura della dimensione della laicità, è la dimensione dell'inno e della bandiera, pure per carità. Per la mia generazione, io ricordo quanto mi commossi nel 50 quando andai in Inghilterra, e questi quando si era l'inno s'alzavano in piedi, mettevano la mano sul cuore e cantavano. Noi avevamo giovinezza, avevamo cantato giovinezza, quindi era difficile che potessimo fare la stessa cosa. E beh, la cultura risorgimentale è stata una grande cosa, ma voi pensate che oggi rilanciare quella cultura sia uno strumento per rimobilitare una coscienza collettiva, un impegno collettivo, per dire il dopo sarà? No, il dopo non può essere quello. Possiamo mantenere alcune testimonianze e alcuni valori, però il dopo non è più quello. E secondo me, anche con tutto l'affetto che gli devo, il periodo presidenziale di Ciampi ha praticamente esaurito, ha chiuso, ha certificato la fine. Ma il secondo fatto ancora più delicato è che noi, la politica italiana, ha vissuto di riformismo dal 1955 in poi. Possiamo ancora parlare di riformismo oggi, di primato delle riforme? Di primato delle riforme che possono trascinare le collettività. Non c'era soltanto nel riformismo italiano di quegli anni il combinato disposto della cultura socialista, della cultura comunista, della cultura cattolica. C'era anche il fatto che si scopriva quotidianamente che i singoli bisogni degli individui erano anche bisogni sociali, quei bisogni sociali andavano fatti da un intervento pubblico, e quell'intervento pubblico doveva riformare le proprie strutture. Questo è stato. Chi come me ha scritto pezzi della nota aggiuntiva Amalfa Saraceno al bilancio 62 sa che questa era la cultura riformista. Ma oggi noi possiamo pensare che a un anziano, anche più giovane di me, gli possiamo dire i tuoi problemi del futuro saranno risolti dalla riforma previdenziale? Te guarda e dice no, va altrove, cerca la badante in Ucraina. Possiamo pensare che i nostri figli siano figli di Celli o di altri, gli diciamo stai tranquillo che la riforma Gelmini ti garantisce quella competitività culturale che tu cerchi, e quelli dà retta al padre e se ne va all'estero. Possiamo pensare che le nostre difficoltà con la pubblica amministrazione, dice vabbè, ma la riforma Brunetta ti risolve tutto. Non è neppure un caso che le uniche riforme di cui si parla seriamente sono riforme che non attengono al rapporto con il bisogno del cittadino, che diventa bisogno sociale, ma sono le riforme del potere, della Costituzione, della magistratura, della forma di governo. Ma non trascini le masse su i problemi di governo, di governance. C'hai il problema che invece il riformismo era una grande cultura di popolo e oggi non ce la fai più. Se io facessi il politico non potrei certamente, non ci tenterei neppure a presentarmi come un politico riformista. Questo farà arrabbiare il mio amico Polito, che c'ha un giornale che si chiama Il Riformista, però non. E la terza cosa che è in declino, la terza grande cultura di fondo, è quella del, chiamiamola, della soggettività individuale, del fai da te, del mercato comunque, della competitività molecolare, del capitalismo molecolare, del capitalismo personale, abbiamo chiamato in tanti modi, io ed altri amici. Beh, è vero, ha fatto l'Italia, e noi negli ultimi 30 anni, e noi scienziati abbiamo anche molto cantato. Il capitalismo molecolare, il capitalismo familiare, il capitalismo personale, abbiamo pure cantato. E per certi versi l'attuale Presidente del Consiglio è stato non l'iniziatore, ma l'icona finale di questo processo. Ma oggi lo sfarinamento di quel processo, non del Presidente, perché non mi permetterei mai, non è il segno che anche quella cultura non rende più? Che anche dire fate come me, arricchiamoci tutti, andiamo avanti, diventiamo diversi, siamo padroni di noi stessi, abbiamo la libertà di essere noi stessi, dobbiamo essere liberi di essere noi stessi anche se facciamo cose non commendevoli, però la libertà di essere regge ancora. Io ho scritto con qualche cattiveria implicita, quel ciclo della libertà di essere se stessi comincia con Don Milani nel 62, l'obiezione di coscienza. Poi è arrivato 10 anni dopo Pannella, il divorzio, l'aborto, ma poi è arrivato 30 anni dopo Berlusconi al governo. Ma il meccanismo comincia allora. E se vale davvero la cultura del ciclo di Kondratiev, significa che i 54 anni scadranno nel 2015-2016. È un ciclo anch'esso alla fine. Non è alla fine come gli altri due, non è del tutto consumato, ma non ci puoi mettere sopra un ciclo nuovo. Il nuovo non può essere né riformista, né risorgimentale, né soggettivistico a oltranza. E questa ansia che tutti quanti, perché anche noi all'interno, quando facciamo riunioni interne, quando, come ho detto prima, l'altro ieri abbiamo presentato agli amici il rapporto, sentiamo quest'ansia del dopo. Però siamo senza politica, senza cultura politica di riferimento, le grandi culture politiche sono finite, e siamo con i singoli soggetti, specialmente quelli più potenti, che agiscono in nome diretto e proprio. Qui sta, se volete, il punto, forse, Raffaele, dillo tu, insomma, forse di primo pessimismo del Derrida in tanti anni. Cioè, è troppo forte, è troppo condizionante il fatto che per 15 anni, quasi 20, non si sia fatta politica, non si siano fatti corpi intermedi, non si sia fatta rappresentanza di interesse, non si sia fatta vita collettiva. Noi di noi privi, direbbe sempre Leopardi, perché la solitudine della soggettività poi porta a una incapacità di essere qualcuno, perché si può essere qualcuno soltanto nella dimensione collettiva, nell'essere soggettualmente importanti, non nell'essere soggettivo soggettivamente solitari. E allora il colpo di coda finale dell'ottimismo arriva sempre quando parla di Rita, naturalmente. E l'ultima pagina è su questa riflessione. Il dopo si costruisce oggi, l'ha detto benissimo Roma, non lo devo ripetere. Il dopo sta nel modo in cui abbiamo coscienza, non dello spaduzzo di turno, ma abbiamo coscienza di questi problemi. Naturalmente non tutti allo stesso livello, ma in cui in pratica coloro che stanno facendo ristrutturazione terziaria nel commercio, nel terziario avanzato, nelle professioni liberali, eccetera, eccetera, coloro che stanno facendo impresa, coloro che stanno faticando a passare dall'impresa sul lusso assoluto all'impresa sul lusso accessibile, che è già molto diversa dal passato, perché c'è più concorrenza sul lusso accessibile. Se tutti noi che lavoriamo e fatichiamo quotidianamente rivolgiamo la nostra attenzione, la nostra energia a quello che sta avvenendo, io credo che tutti mi conoscono abbastanza per sapere che non mi sono mai impalcato ad esprimere coscienza civile, non mi sento un padre della patria, non ho mai sentito. E resisto sempre a fare messaggi di coscienza civile, anche se oggi forse ci sarebbe un po' qualche bisogno. Ma quello che credo sia giusto fondamentalmente, anche in termini di coscienza civile, è che oggi, il futuro, il dopo, si costruisce qui e ad adesso. Qui e adesso, le ultime due parole delle nostre considerazioni generali. Qui e adesso. Soltanto se sfuggiamo l'opinionismo, sfuggiamo gli eventi, se veramente viviamo, non noi di noi privi, ma viviamo quello che c'è da vivere giornalmente. Alla prossima puntata, grazie. Grazie a tutti, ancora grazie a tutti. No, diglielo. Lei, prima di stare.